Smettila di piangere, devi essere forte. Non devo piangere, non devo sbagliare, devo farcela, devo mostrarmi forte, devo essere forte. Ma certo che dobbiamo essere forti, ma chi l'ha detto che non possiamo anche essere deboli? L'idea di sentirci fragili e vulnerabili ci espone al rischio di sentirci meno amati, meno accettati per quello che siamo. In una sua famosissima ricerca, ne ho parlato in un altro video, ti lascio il link in descrizione se vuoi approfondire, Brené Brown ha dimostrato che proprio le persone che hanno il coraggio di abbracciare la propria vulnerabilità, la propria imperfezione, sono proprio le persone che credono di meritare l'amore e la vicinanza degli altri e quindi riescono anche a creare rapporti umani più sinceri e profondi. Se anche tu ne sei convinto, voglio proporti 10 modi per allenare la tua vulnerabilità, la tua capacità di sentirti fragile, di stare bene con te stesso, anche nel momento in cui ti senti debole, fragile, vulnerabile. Sono 10 situazioni dalle quali ci verrebbe istintivo fuggire, ma che se riusciamo invece ad accogliere con serenità nella nostra vita, ci daranno una grandissima capacità di affrontare il mondo con molta più forza e serenità. Primo, non avere paura di commuoverti e di piangere. Quando eravamo bambini e in famiglia vedevamo tutti insieme un film in cui c'erano scene un pochino commoventi, mi ricordo che in quei momenti io facevo sempre una battuta, oppure prendevo in giro le mie sorelle che magari in quel momento si commuovevano. Piangere di fronte agli altri non ci piace perché ci rende deboli, fragili, vulnerabili, ci sembra di essere esposti nei confronti degli altri. Piangere e commuoversi, non necessariamente di fronte a tutti, ma almeno di fronte alle persone dalle quali ci sentiamo amati, è una cosa molto bella e molto liberante. Secondo, riconosci ed esprimi i tuoi bisogni con le persone che ami. Ti senti triste, hai bisogno di un abbraccio? Dillo. Ti sembra che la persona che ami in quel momento non è riuscita ad ascoltarti in modo profondo? Diglielo. In realtà, comunicare i propri bisogni in modo efficace non è semplice, è una vera e propria arte. Ne ha parlato moltissimo Marshall Rosenberg, il padre della comunicazione non violenta, un metodo comunicativo basato sull'empatia. Sicuramente a breve farò altri video su questo tema veramente bellissimo. Terzo, quando sei accusato di qualcosa o ti viene detto che magari in quel frangente non ti sei comportato bene, prova a non difenderti, prova a rimanere in silenzio. Quando siamo accusati di qualcosa, ci viene molto istintivo cercare di difenderci, di trovare una giustificazione. Prova invece a restare in quella sensazione di vulnerabilità che deriva dal sentirti in qualche modo non adeguato riguardo a quella situazione o a quella persona. Potrà essere duro all'inizio, però è importante per riuscire a convivere con quelle parti di noi che ancora devono evolvere meglio. Qualunque accusa, qualunque critica può essere colta in modo costruttivo per diventare una versione sempre migliore di noi stessi. Quarto, chiedi scusa. Ammettere di aver sbagliato è un modo limpidissimo e molto semplice di accogliere nella nostra vita le nostre fragilità, i nostri limiti. Se sei stanco, dillo. A volte ci illudiamo un pochino di essere dei Superman, e invece siamo degli esseri umani e come esseri umani ci stanchiamo e abbiamo bisogno di riposarci. E come esseri umani, a volte abbiamo anche bisogno di dire che siamo stanchi e che abbiamo bisogno di riposarci. Sesto, ammetti di non sapere qualcosa. Ammetti di non sapere tutto anche su un argomento sul quale dovresti essere preparatissimo. Io non sono un biblista, però a volte, come prete, mi vengono chieste delucidazioni, magari su un particolare versetto biblico o evangelico. Se so come rispondere, lo faccio. se non so in quel momento spiegare quel passo biblico, che cosa dovrei fare? Arrampicarmi sugli specchi? Provare in qualche modo a dissimulare la mia ignoranza? Semplicemente lo dico. E se penso di averne l'occasione, magari aggiungo anche che mi informerò a proposito e magari ne potremo riparlare. Settimo, una persona ti chiede aiuto e non sai proprio come fare per aiutarlo? Ammetti anche questo, assicurandogli anche la tua vicinanza e che pregherai per lei. 8. Non dire bugie. Se ci pensiamo, in fondo, la bugia, perché la diciamo? È perché in fondo è un modo di nascondere la nostra fragilità. Perché un bambino non dice alla mamma che ha preso un brutto voto? Perché ha paura che si arrabbi? Può essere, ma più in profondità, perché ha il timore che la mamma potrà amarlo di meno se gli svelerà quella sua fragilità. Da questo punto di vista, quanto è importante che i genitori riescano ad accogliere i limiti e le fragilità dei propri figli in modo da non farli sentire inadeguati e meno amati, ma cercando sempre di incoraggiarli a superare le difficoltà, se questo è possibile, e a volte anche aiutandoli ad accettare la loro fragilità. Ma le bugie non le dicono soltanto i bambini. Mi sono dimenticato di telefonare a un carissimo amico per il compleanno. Guarda, avevo il telefono scarico, avevo perso il tuo numero, mi è stato proprio impossibile chiamarti perché stavo lavorando. Non potrò invece semplicemente dirgli che mi sono dimenticato e dirgli se ha voglia domani di prendere un caffè insieme? No, accetta la tua immagine fisica. Se sei donna, accetta a volte di non essere sempre perfettamente truccata, ben vestita, pettinata, in forma. Se sei uomo, accetta di non avere un fisico perfetto e addominali scolpiti. Uomo o donna, se ti accorgi di essere un pochino dipendente dall'immagine fisica che mostri alle altre persone, prova a volte a fare delle cose incredibilmente pazzesche, del tipo: esci senza truccarti. Buttati nell'armadio e mettiti i primi vestiti che capitano senza abbinarli. Vai in spiaggia e porta in giro con fierezza la tua bella pancetta da impiegato. 10. Accetta di invecchiare. Anna Magnani una volta disse al suo truccatore: lasciami tutte le mie rughe, non togliermene neppure una, perché ci ho messo tutta la vita a farmele. Il tempo passa, che problema c'è? Non è magnifico essere vivi. Certo, gli anni portano con sé anche rughe ed acciacchi, ma dimmi la verità, davvero vorresti ritornare indietro e ricominciare tutto da capo? Se sei fiero della persona che sei, come hai potuto diventarlo se non tramite tutto il tempo che è passato e le esperienze che hai vissuto? Non è meraviglioso a volte vedere che ci sono persone che invecchiano serenamente? Se ti chiedono l'età, non barare, non cambiare discorso, non avere mai paura di dire quanti anni hai. Anzi, fallo con un pizzico di orgoglio. Ok, se vi vengono in mente altri modi di esprimere la fragilità nella nostra vita, scriveteli nei commenti. E poi vi voglio ringraziare per tutti i commenti e gli apprezzamenti che a volte mi mandate su YouTube, su Facebook o anche per email. I complimenti e i mi piace mi fanno sempre molto piacere. Ancora di più sono felice quando, se un video vi è piaciuto, vi ha trasmesso qualcosa, e decidete di condividerlo con i vostri amici per far crescere sempre di più intorno a noi il desiderio e la voglia di comunicare a tutti il sorriso di Dio. Se vedete questo video su YouTube, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdere le notifiche di tutti i video che pubblico ogni lunedì mattina.